Bello, oh, come zi, tutto a posto? Sì, tutto a posto, te? Ma un po' male, come ti sta andando al lavoro? Ma abbastanza bene oggi. Ti arrivano sti cazzi ordi, a me non mi arriva niente. Sì, sì. Quante ne fatti 5-6 a pranzo. 5-6 a pranzo? Sì, sì. Minchia, a me me ne sono arrivati due. Sì. Mi è arrivato 2-1 da 3,77 €. Che poi lo sai, 3,77 € è il minimo, perché tassati sono 3 €. Poi mi è arrivata una consegna doppia, che sono dovuto arrivare in Arco della Pace, partendo dalla Barona, mamma, e poi mi hanno rispedito in Molise Calvairate. Al posto di fare 6, 5, 11, ma 9,90 € tassati, un cazzo, ho fatto 16 chilometri. Minchia, una sbatta assurda. Guarda, un cazzo di macello, ma... Però a te ti arrivano sì, questi ordini? Sì, sì, sì, sì, sì. Ma, vabbè. Aspetta, aspetta, forse mi serve l'ordine. Fai vedere. Cioè, ma ti sta arrivando l'ordine a te? Ma... No. No, a me no, non sto arrivando. Non controllo più. Non sto arrivando. Cazzo di non sto arrivando. Rai del supporto, poi non ci scrive manco niente. Non sta arrivando niente. Quindi che cos'è questa notifica? Aspetta, aspetta. Ah, aspetta. Ma so io che è questa notifica. Che cos'è? Che è? Questa notifica qua è la notifica degli sbirri che ci devono fare molto per presidio. E ce la mandano come? E ce la mandano come? Quando abbiamo fatto lo sciopero, capito? Ma no. Manifestare per i nostri clienti ci fanno pure le multe questi qua, a noi ride. Ma cavolo, ma perché non c'è nessuno che racconta questa roba? Se non escono né sul Corriere, non escono da nessuna parte, guarda, è incredibile. Aspetta, ma che giorno è oggi? Oggi è giovedì sera, quindi c'è Mala Radio. C'è? C'è cosa che c'è? Mala Radio! Mala Radio! Buonasera a tutti e tutte. Questa sera su Mala Radio un intervento dell'ambulatorio medico popolare sul tema del cibo e dell'agricoltura. Andiamo subito avanti con aggiornamenti su sgomberi e mobilitazioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Parleremo poi di rider e delle multe che la polizia ha dato in seguito a uno sciopero. Continuiamo parlando di sorveglianza speciale e di prigionieri. Abbiamo poi un approfondimento sulle mobilitazioni per la situazione peruviana a Milano. Concludiamo con un'intervista in merito alla riqualificazione del parchetto di fronte al Cox. Vi ricordiamo che potete scriverci su Telegram, Signal o via SMS al numero 351-91-82-889. Buona serata e buon ascolto. A Milano è nata una nuova radio. È nata Mala Radio. Per ora il nostro palinsesto consta di una sola trasmissione, o forse già due. Ma siccome ci immaginiamo la radio come uno strumento collettivo, ci piacerebbe che voci, idee e storie si moltiplicassero. Per fortuna che a disposizione abbiamo uno streaming di 24 ore. Quindi qualsiasi gruppo o individualità che volesse fare una trasmissione, avanti pure! Scriveteci a malaradio@autistici.org. Abbiamo anche un blog, malaradio.noblogs.org. Sul blog potete trovare podcast delle puntate passate, dei ritagli dalle puntate, ma anche un calendario degli eventi. Anche tu sai fare uno spottino? Mandacelo! Il nostro numero è 351-9182-889. Lì potete scriverci, ma non chiamare, mi raccomando, in trasmissione su Telegram o Signal. Oh, in trasmissione siamo più energici di così, eh? Ci sentiamo giovedì su Mala Radio. Sei scoppiato, come ti sei rovinato, dimagrito, sembri quasi uno zombie. Sarà colpa delle notti che ho passato ad aspettare cose che forse dovevano arrivare. Ma non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Mia madre m'ha guardato, dice come sei finito, così in basso non t'avrei pensato mai. Sì, ma in basso puoi scoprire le sottili incrinature che non puoi studiare all'università. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, malattia. Oh no! Il tuo vestito sembra veramente usato, non ti cambi mai, mi sembri proprio giù. Beh, scusatemi ragazzi, oggi ho altro da pensare, ho il mio abito di dentro da cambiare. E non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, una malattia. Oh no! Il tuo lavoro non è una cosa sicura, ogni mese cambia e dopo che farai? Forse sono un po' svanito, ma il domani non esiste e quest'oggi io non voglio essere triste. Ah, non è una malattia, no, non è una malattia, e non è una malattia, la malattia. Oh no! Che la scima della lebbia, questo ma non l'imbala, non l'imbala, non l'imbala, non l'imbala, non l'imbala. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, bentornati a Mala Radio, sono le 20.45 e ci rivediamo dopo una settimana che non ci stavate ascoltando, a meno che non abbiate sentito i podcast allora, meno di una settimana. Questa era Ma non è una malattia di Gianfranco Manfredi, che del 1977, così pare dopo un profondo studio. Torniamo un pochino più seri e, come di consueto ormai, apriamo la nostra puntata con un approfondimento sulla salute con l'ambulatorio medico popolare. L'ambulatorio medico popolare esiste dal 1994, si trova a Pasteur, in via dei Transiti, da sempre si occupano di salute, soprattutto per chi non ha la possibilità sia economica ma anche per una questione di documenti o culturale, ma comunque economica, di accedervi. E a parte questo, in questo periodo hanno approfondito il tema della salute ed è nata una campagna che si chiama appunto "Se c'è la salute, c'è tutto", al contrario, quindi "Se c'è tutto, c'è la salute e vogliamo tutto". E adesso stasera siamo in collegamento con un compagno dell'ambulatorio medico popolare che ci parlerà di alimentazione e cura del territorio, se non sbaglio. Giusto, mi senti? Ciao, sì, sono Umbo e vi parlerò di cibo almeno. Evviva! Sì. Sempre un bel argomento. Sì, il mio argomento è il cibo. Dici, come mai hai scelto questo argomento associandolo alla salute? Ma dunque, perché io mi sono sempre interessato fondamentalmente di agricoltura e mi è sempre piaciuto fin da piccolo coltivare. Io andavo in campagna dai nonni e quindi coltivavo lì le erbe. Era partito tutto da una visita a un monastero in cui avevo visto queste erbe aromatiche, mi ero appassionato e da lì poi sono partito. Avevo 12 anni, ho sempre coltivato l'orto, così. E quindi poi la tematica cibo della mia vita torna e ritorna. E penso che sia comunque un argomento fondamentale per la salute, perché noi oggettivamente, ma di fatto, siamo quello che mangiamo. Cioè ogni ciclo di anni, 4, 5, noi non siamo più, il nostro corpo non è più quello di 5 anni prima, perché abbiamo sostituito ogni suo mattoncino, ogni suo pezzo. E l'abbiamo fatto, di fatto lo facciamo con ciò che mangiamo, quindi non si può, il cibo di fatto è un argomento fondamentale per la salute e per la nostra vita. Sì, e la curiosità era, voi come ambulatorio medico popolare siete riusciti ad affrontare questa tematica, come l'avete approfondita, se avete anche avuto un riscontro da parte di chi viene all'ambulatorio a farsi curare? E dunque sì, la possibilità, spesso vengono persone che con banalmente problemi di, che si chiama di epigastralgia, insomma di bruciore di stomaco, di reflusso gastrico, ma questo mi viene in mente come prima cosa, come esempio di come la dieta sia fondamentale, ma a parte quello, il diabete, la pressione alta, i consigli dietetici sono, ma secondo me più che i consigli medici, una consapevolezza da parte delle persone di ciò che fa bene o non fa bene è molto importante, e per questo come ambulatorio ci è sembrato necessario metterlo come punto della campagna. Ciao, c'è un cambio voce, ti volevo fare una domanda che mi è venuta in mente mentre parlavi del diabete, perché anni fa a Bologna un gruppo di medici compagni aveva studiato l'insorgenza del diabete dentro i dormitori comunali, perché l'alimentazione era obbligatoriamente all'interno della struttura ed era sempre pasta, tra l'altro di pessima qualità. E quindi gente che non aveva il diabete quando entrava, poi ce l'aveva quando usciva. Volevo sapere se avevate riscontrato simili situazioni o... insomma, sì. No, non ho capito, scusami, perché ho ritorno. Rifaccio tutto? No. Anni fa a Bologna, dei medici compagni avevano riscontrato l'insorgenza di diabete all'interno di strutture tipo dormitori, dei giovani soprattutto. Quindi quando entrava la gente non ce l'avevano, quando uscivano ce l'avevano, perché l'alimentazione era obbligatoriamente all'interno della struttura ed era sempre pasta di pessima qualità, tra l'altro. Quindi ti chiedevo se avevate trovato situazioni simili o comunque avevate un'analisi su questo genere di fatti. Dunque, no, vabbè, un evento del genere non c'è, no, non ne abbiamo riscontrati. Allora, diciamo che l'accesso comunque a frutta e verdura, quando chiediamo così, ma riesce a mangiare, sì, comunque... sì, c'è, non vediamo persone che non hanno proprio accesso a cibo. È la qualità di questo cibo, il prezzo e anche la consapevolezza di che cosa mangiare, di cosa costare. Questo credo che sia, questa è la cosa che mi appassiona di più. Certo, cibi spazzatura hanno un prezzo inferiore spesso. Di fatto è un dato di fatto che cibi di qualità hanno un prezzo molto elevato. E questa è una cosa di cui è un problema da affrontare. Ma l'avete affrontato come ambulatorio? Che cosa avete... Non so, È molto, molto vasto, anche catene come catene bio, natura, così, sì, è vero, il prezzo del cibo è altissimo, sarà anche di qualità, ma è altissimo e quindi nel senso chi è che se lo può permettere? Non lo so, io crediamo noi che sia che in una poi società crediamo in un benessere diffuso, ecco, crediamo che non solo chi è ricco possa godere di cibo di qualità, ma che questo cibo sia accessibile a tutti a prezzi bassi. Sì, certo, e ti faccio una domanda anch'io, vabbè che è diventata una domanda un po' ricorrente purtroppo in questo periodo, però se rispetto a questo tema del cibo, dell'alimentazione legato ovviamente alla questione della salute, avete riscontrato dei cambiamenti durante la pandemia? Perché vabbè, insomma, quello che poi si sapeva a livello più generale, che la grande distribuzione insomma ha fatturato molto di più, che le persone erano chiuse in casa, abbiamo avuto modo di parlare degli altri vari aspetti che questo ha comportato proprio le altre volte che abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con le compagne e compagni dell'ambulatorio medico popolare, e mi chiedevo se anche rispetto a questa, cioè se avevate notato dei cambiamenti, qualcosa di particolare in questo periodo di pandemia. Quando un anno fa era stata fatta la distribuzione a persone che per vari motivi avevano difficoltà ad uscire di casa in quarantena perché con le strade vuote poteva essere un rischio per loro di fatto anche solo andare a prendere del cibo o non avevano più uno stipendio per comprarselo, lì c'era stato un parecchio afflusso. E poi nello specifico questa cosa qua Io non l'ho riscontrata così tanto parlando, ma poi per quella che è la mia esperienza personale. Ok. E leggevo poi nello scritto che ci avete mandato, il mondo non è un laboratorio standardizzato. Noi non mangiamo sementi create da multinazionali con pesticida associato, allevamenti intensivi per produrre cibo spazzatura, al solo scopo di creare business. Vogliamo la diffusione capillare di differenti forme di agricoltura biologica, dinamica, per permettere a tutte e tutti l'accesso a cibo di qualità a prezzi contenuti. E, no, se volevi, cioè, perché sembrava un pezzo abbastanza significativo, quindi se volevi un attimo, cosa avete pensato quando avete scritto queste, cosa pensavate quando avete scritto queste frasi, se volevi un attimo magari approfondirle, se vuoi, se no. Sì, sì, sì. No, allora, come produrre il cibo è una tematica che mi appassiona profondamente. Perché allora il tema della delega, cioè noi deleghiamo a qualcun altro un nostro bisogno vitale, deleghiamo a qualcun altro la conoscenza di come trovare o produrre del cibo che noi mangiamo, e questo mi sembra una cosa a cui pensare. Almeno parlo personalmente, sapere come nasce, come cresce, da dove viene il cibo che mangio, ed essere in grado io di o produrlo oppure di trovarlo, questo mi appaga, mi dà più sicurezza di me, credo che sia fondamentale per la mia vita. E credo che si vivrebbe meglio in un mondo in cui ci siano piccole comunità che abitino, che conoscano il territorio, che sappiano cosa cresce, che non un laboratorio standardizzato di monoculture, di OGM, di piante di fatto poi stupide, programmate solo per risolvere un problema, un gene atto ad uccidere un particolare infestante, che poi però ne selezioni di molto più forti, quindi magari ne arriva uno, ti uccide tutte le piante, tu di nuovo devi fare investimenti per creare altre piante ancora più forti. E si tratta di che visione del mondo vogliamo avere, un mondo controllato, standardizzato, razionalizzato, non lo so, io in un mondo del genere non mi ci trovo bene, io preferisco un mondo complesso, un mondo in cui un giorno può essere in un modo, un altro giorno in un altro, ma che gli esseri che popolano il pianeta siano in grado di giorno per giorno di adattarsi, di interagire tra loro. Credo in una questo secondo me è l'intelligenza, questo è il benessere, il sapere adattarsi alla complessità e non stare nella sicurezza del controllo che la scienza, il capitalismo ci danno. Grazie, molto, molto chiaro direi. E credo, scusami, crea appunto altre forme di agricoltura biodinamica, ma che sia biologica, che siano le food forest, così. Credo che magari non ci danno la stessa regolarità di raccolto, ma insomma, secondo me ci danno cibo con qualità organolettiche molto migliori e poi io preferisco sinceramente vivere in un mondo del genere piuttosto che in una monocultura di Avogadro. Beh, anche con una relazione con l'ambiente e il territorio più, più... Beh sì, più sana, più complessa, esatto. più forte. Va bene, grazie mille, molto interessante. Speriamo che accenda dei ragionamenti quello che ci ha raccontato. Va bene, se non hai nient'altro da dirci, ti saluteremmo. Va bene. No, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord a bombardé. Je vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le bal m'en baissé sur le palier. Comme autre tu mets haut, je suis médaillé. Vamos, non, ce négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. Ta ala, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'argent. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mis trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai bataillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis devant un plat de thieboudienne. Même moi je pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert de client en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler. Madame la juge est lente de rage. Trahi comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler. Passe-moi les masses à Mama Kosa, FLO, Mara, Salvatrocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribord de bombarder, je vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté le rôle. Première roue arrière et des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer les crocs. Buonasera a tutti. Siamo all'ennesimo momento tristezza della città di Milano. Parleremo di nuovo di sgomberi, diamo il bollettino di guerra perché è una guerra. Ce n'è stato uno in Prealpi e poi un altro in Corvetto, in piazzale Gabriele Rosa al numero 9. In questo caso lo sgombero è avvenuto, vabbè, sempre con le camionette gli antisommossa, i borghesi, ma al posto di Aler, che è la protagonista più rilevante degli sgomberi degli ultimi mesi, questa volta c'era MM, che ricordiamo è un altro ente che gestisce case popolari e le assegna, soltanto che anziché essere a gestione regionale è a gestione comunale. E ci preme dire che Corvetto, evidentemente, è un po' come succede a Barona, è nell'occhio del ciclone, perché, come ricordava qualcuno del comune, che non so chi sia, è a 3 km dal Duomo, quindi è un quartiere rilevante anche da quel punto di vista ed è interessato anche dai lavori delle Olimpiadi del 2026. E infatti c'erano stati già nella settimana scorsa degli sgomberi in via Panigarola 5 e Monpiani 4. Per questo, per dare solidarietà a chi è stato sgomberato, domani alle 18 c'è un presidio in piazza Ferrara. Andiamo avanti con notizie che si spostano anche da Milano, sono proprio più su tutto il territorio, su tutto il paese, e riguardano la ripresa la ripresa della lotta dei lavoratori del Sicobas. Sempre per la questione dei licenziati della FedEx a Piacenza. E cosa è successo? L'8 giugno hanno ripreso lo sciopero contro la filiera FedEx, appunto, e l'hub di Lodi era completamente fermo grazie anche al supporto dei lavoratori di Piacenza e Pavia. Anche a Bologna e ad Ancona gli hub, o hub, in effetti dipende come li chiamate, sono stati completamente fermi dallo sciopero, dai picchetti. Ad Ancona segnalano quelli del Sicobas, appunto, che è stato utile il supporto dei solidali di Perugia e Ascoli. Anche a Fiano Romano sono riusciti a bloccare l'ingresso dei camion e l'uscita dal hub, appunto, di Fiano Romano, con il sostegno di numerosi lavoratori e solidali anche da Napoli, che arrivavano anche da Napoli e alcune città del Lazio. Questi scioperi e picchetti sono stati organizzati innanzitutto contro quella che Sicobas chiama internalizzazione truffa, ma anche e in primis per il reintegro dei 272 lavoratori licenziati a Piacenza, come già avevamo parlato in alcune puntate fa, anche intervistando un delegato sindacale del Sicobas. E infine un'altra richiesta, un altro motivo perché gli ha fatto riprendere questi scioperi su scala nazionale non smetteranno fino a quando i lavoratori non saranno liberi di scegliere il sindacato che deve rappresentarli ai tavoli di trattativa. Queste sono le motivazioni, appunto, descritte dai comunicati del sindacato di base Sicobas, che si concludono dicendo che il 19 giugno ci sarà, appunto, questa chiamata nella capitale, cioè a Roma, dove ci dicono che in massa scenderanno, appunto, contro lo sblocco dei licenziamenti che sarà a breve, e per imporre al ministro dello sviluppo economico Giorgetti l'apertura di un tavolo di trattativa nazionale sulla vertenza FedEx e di questo colosso, appunto, statunitense. Quindi sì, cattive notizie, però anche buone vedere come la lotta dei facchini non, sì, magari si arresta, però non molla. Sì, da una lotta all'altra, ma dopo infatti parleremo della lotta dei rider, però prima un po' di musica. Ricordiamo la canzone di prima che si chiamava Dakar, l'artista era Bubba. Ora invece ci sentiamo un gruppo punk, visto che abbiamo parlato anche dei sgomberi che ci sono stati a Milano. Sentiamo i Quinto Braccio di Torino, che invece rilanciano con Occupazione. Volevamo ricordare il numero della radio, che è 351 91 82 889. Esatto, lo ripetiamo anche più piano perché ci hanno fatto notare che lo ripetiamo velocemente. Allora lo ripetiamo più piano: 351 391 82 889. Potete scriverci messaggi o scriverci su Telegram. Ricordiamo anche la mail, che è malaradio@autistici.org, 21:10. Malaradio sempre in diretta da Milano. E ora ci sentiamo in Quinto Braccio con Occupazione. Questi erano i Quinto Braccio, Occupazione, bisogna partire dai nostri bisogni, riappropriarci delle strade, soddisfare i nostri spazi, occupiamoci le case, sgomberiamole dai padroni, e anche dei loro spazi e dei loro diritti, insomma, provano a riprenderseli i rider e le rider ogni giorno, quotidianamente. Più nello specifico, nella data del 26 marzo c'è stato lo sciopero nazionale indetto da tutte le... insomma, sigle di ragazzi e ragazze che lavorano come delivery in Italia, e a Milano sono arrivate delle multe. Ma ora, per farci spiegare un po' meglio di tutta la situazione, insomma, dei rider, del perché sono scesi in strada e del perché anche sono arrivate queste multe a Milano, abbiamo un contributo audio che ci ha mandato un compagno che fa parte dei Rider in Lotta a Milano. Ora ce lo ascoltiamo. Ciao, sono un lavoratore del settore del food delivery e faccio parte del collettivo Rider in Lotta Milano, un collettivo formato sia da lavoratori che da lavoratrici di Milano e provincia. Per raccontarvi un po' cosa sta succedendo nel nostro settore, inizierei riassumendo i fatti che sono accaduti nell'ultimo anno e mezzo, fatti che hanno cambiato radicalmente il volto del nostro lavoro. Infatti il 15 settembre del 2020 è stato siglato da parte di Asso Delivery e ANAR UGL il primo contratto collettivo nazionale dei rider. Però contrariamente a quanto si possa pensare, questo contratto collettivo non ha introdotto miglioramenti per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, anzi è un contratto totalmente pensato e scritto a favore delle aziende, che lascia volutamente insoluti moltissimi problemi riguardanti il nostro lavoro e che verte soprattutto su due punti che sono importantissimi per i profitti delle piattaforme. E quali sono questi due punti? Uno è quello che vede l'inquadramento di noi riders come lavoratori autonomi, su cui appunto viene scaricata viene scaricato tutto il rischio di impresa e tutto il peso del pagamento delle tasse e dei contributi. Secondo punto è l'introduzione del sistema di paga del cottimo integrale, che prevede appunto il pagamento dei lavoratori in base a quante consegne riescono ad effettuare. Ovviamente questo sistema spinge il lavoratore ad andare sempre più veloce, a mettere sempre di più a rischio anche la sua incolumità per portare a termine il maggior numero di consegne, e di contro ha permesso alle aziende di poter assumere un grande numero di nuovi riders a costo zero, sempre disponibili, e che vanno ovviamente a mettersi in competizione l'uno con l'altro per spartirsi sempre più esiguo di consegne e pagate sempre peggio. Un altro costo che è totalmente sulle spalle dei riders è quello relativo al proprio mezzo di lavoro, che sia bicicletta, e-bike, motorino, macchina. Tutta la manutenzione e le spese, ad esempio per la benzina, per i mezzi motorizzati, sono a carico nostro e non viene riportato nessun rimborso di nessun genere nel nuovo contratto nazionale. Quindi l'entrata in vigore di questo contratto ha assicurato alle aziende di avere a disposizione un grandissimo numero di rider disposti a fare anche le consegne più lunghe e pagate peggio, e questo diciamo soprattutto con l'innalzamento del carico di lavoro dovuto al Covid ha presentato un grandissimo vantaggio per le aziende. La novità fondamentale è stata l'introduzione del free login da parte di Deliveroo e Uber Eats soprattutto. Cos'è il free login? Il free login è la libertà, tra virgolette, da parte del lavoratore di potersi collegare e iniziare a lavorare in qualsiasi ora della giornata. L'altra caratteristica del free login è che lascia sempre, tra virgolette, la libertà al lavoratore di spostarsi tra le zone lavorative. Per capirci meglio, se io sono un rider di Pavia, posso prendere un treno e recarmi tranquillamente a lavorare a Milano. E questo perché? Perché alle aziende, soprattutto sempre nel weekend, serve che un gran numero di rider si sposti nelle zone dove c'è più richiesta, così da poter coprire tutti gli ordini. Questo sistema crea una disparità di condizioni lavorative e retributive tra città e città. Ad esempio, Milano, nonostante avvenga continuamente un flusso di centinaia di rider al giorno dall'Interland verso il centro della città, è una città dove si riesce comunque più o meno ancora a lavorare. Però se si prende invece ad esempio delle realtà minori, delle piccole cittadine, e questo sistema del free login ha portato al fatto che nell'arco della giornata i rider riuscissero a fare al massimo una o due consegne, determinando perciò un abbassamento drastico dei salari dei lavoratori. Appena entrato in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale a novembre 2020, fin da subito sono scoppiati scioperi spontanei in varie città d'Italia, e soprattutto qua a Milano ci sono stati 5 giorni di sciopero con centinaia di rider che attraversavano la città scandendo cori e fermando tutti i colleghi che invece avevano deciso di lavorare per sottrargli gli ordini e così per recare un danno alle aziende che poi si trovavano a dover rimborsare i clienti. Una delle poche armi che abbiamo in mano per fare veramente male alle aziende, alle piattaforme, perché ovviamente non avendo punti di ritrovo fissi, non avendo magazzini da poter picchettare, eccetera, fare uno sciopero che vada veramente a toccare sul lato economico le piattaforme risulta difficile. E diciamo, queste giornate di sciopero, questa combattività da parte dei lavoratori ha lasciato tutti un po' stupiti. Soprattutto la polizia in quei giorni non è riuscita a intervenire in nessuna maniera, perché appunto gli spostamenti da una parte all'altra della città in bicicletta o con i motorini o con altri mezzi erano troppo veloci per poter permettere alla polizia di stare dietro. Tant'è che invece nell'ultima giornata di sciopero del 26 marzo si è notato più di una volta appunto il nervosismo della polizia nei nostri confronti e anche il fatto che non riuscissero a impedire la continuazione dello sciopero. Infatti hanno deciso di attaccarci a livello economico recapitando a una decina di rider e solidali delle multe da 400 euro dicendo che non abbiamo rispettato le norme anti-Covid durante una iniziativa avvenuta il giorno dello sciopero. Stessa tecnica già usata tra l'altro contro i rider a Padova, già sperimentata contro i rider a Padova e quindi che rappresenta un po', no, i primi tentativi da parte dello Stato di repressione appunto delle lotte rider, un campo dove non hanno ancora ben chiaro come agire. Dopo le giornate di sciopero di novembre, Just Eat decide di uscire da Asso Delivery e proporre un piano per l'assunzione da dipendenti di tutti i suoi rider. Anche perché nel frattempo, a febbraio, c'è stata la sentenza del Tribunale di Milano che appunto dichiarava noi rider come lavoratori dipendenti in quanto sottoposti, no, alle leggi degli algoritmi che stabiliscono i nostri compensi e raccolgono i nostri dati e formulano statistiche, diciamo, durante il nostro lavoro. E appunto il Tribunale di Milano, ha condannato le piattaforme a pagare svariati milioni di multe e a assumere i 60.000 rider che lavorano in Italia. Diciamo che siamo a un bivio perché, a parte il fatto che le piattaforme hanno fatto ricorso contro questa sentenza, però si potrebbe arrivare a l'obbligo, appunto, a imporre l'obbligo a queste piattaforme di accettare un contratto per far diventare i lavoratori dipendenti. A questo proposito, Just Eat si è mossa già per conto proprio e ha creato, tramite il modello Scuber, un modello di contratto da lavoratore dipendente. Questo contratto è già stato sperimentato a Monza, ora è entrato in vigore anche qua a Milano e diciamo che se da un lato apporta sì dei miglioramenti alle condizioni di lavoro perché vengono riconosciute ferie, le malattie, l'infortunio pagato, e a livello invece retributivo e soprattutto a livello di monte ore proposte ai lavoratori da parte dell'azienda ha lasciato molti scontenti. E infatti molti dei vecchi lavoratori che Just Eat hanno rifiutato questo nuovo contratto e infatti l'azienda fa fatica ad avviare anche nuove zone nella città. Questo per dire che non basta avere un contratto da dipendenti, bisogna pure pretendere che sia un contratto vero, che sia un contratto che riporti una paga adeguata ai rischi e ai sacrifici che comunque comporta questo mestiere, la fatica fisica e tutto. E questo per dire che ci troviamo un po' quindi a metà tra il lavoro a cottimo e un nuovo lavoro da dipendenti, e non sappiamo bene quale dei due funziona meglio. Anche perché, come si è visto, affidarsi alle trattative portate avanti dai sindacati confederali è impossibile, perché anche con la nella trattativa per il contratto di Just Eat, cioè i termini delle trattative non sono mai stati chiari, tant'è che ne è uscito un contratto con una paga abbastanza bassa, che prevede 8,50 lordi all'ora, e che ha lasciato spazio alle rimostranze e ai discorsi di tutti quelli che invece si erano sempre schierati a favore del lavoro autonomo, a favore del cottimo, e diciamo ha ridato appunto forza a tutti questi discorsi. Ora infatti sicuramente non è facile parlare a molti di contratto da dipendente, soprattutto perché abbiamo questo precedente che è dai lavoratori giudicato negativo. E quindi, per concludere, staremo a vedere quale dei due modelli alla fine si imporrà, e in base a quello imposteremo come portare avanti la lotta. Tutto qua. E niente, volevo ringraziare i compagni e le compagne di Mala Radio per lo spazio che ci hanno dato. Ciao a tutti e a tutte. ライダースは多国籍企業の奴隷労働搾取を絶対に許さない。さらに企業と公安警察機動隊が一体になったこの間の我々ライダースへの弾圧をここに徹底的に弾劾する。我々ライダースは移民、外国籍、労働者、学生、スクォッター、自転車好きと連帯し、さらに世界のライダースたちと共に戦い、企業と国家による暴力を打倒せんと本日ストライキに入る、ストライキに入る、ストライキに入る。 Da Torino Sud a Torino Nord, giro con la gang, sono sempre con lo squad. Garibaldi Avenue, Carlo Alberto Square, giro con lo squad, sono sempre con la gang. Solo o con la gang, Torino, nord, sud, ovest, est, e forse il gruzzolo che cerco neanche c'è. E non è New York, hipster, sushi bar e punto MS, collina Beverly Hills e porta palace, la medina di McNess. Un altro giorno a pedalare, notte insonnia di grignare i denti, fighting for my class. Siamo sempre sotto assedio ma non siamo soli, fre, fidati di me. La prima luce del quinto giorno all'alba, guarda ad est, il nostro sangue è sull'asfalto, per quattro spiccioli di merda. Ora ci chiama ad una nuova lotta, sulla mole brilla la stella di Exarchia, per noi Malaghes. Da Torino Sud a Torino Nord, giro con la gang, sono sempre con lo squad. Garibaldi Avenue, Carlo Alberto Square, giro con lo squad, sono sempre con la gang. Sciopera, sciopera, sciopera, blocca queste strade, e la mano d'opera, frate, il lavoro, mica di nobilità, e la tua vita qua che si sacrifica, ma questa crew non conosce classifica, parte dal basso quando si mobilita, perché la lotta non la fai quei like, solo se blocchi tutte e poi fai strike. Alle luci blu gridiamo banzai, né soldi né fama ma soltanto guai, schidando e lottando che non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Volevo dirlo in modo che fosse chiaro, chiaro, abbiamo vinto e non è stato Di Maio. Bologna, Firenze, Roma, poi Milano, Catania, Modena, Verona, ci siamo. Lo Stato non ci aiuta, per questo noi lottiamo. L'azienda si rifiuta e noi la distruggiamo. Da Torino Sud a Torino Nord, giro con la gang, sono sempre con lo squad. Garibaldi Avenue, Carlo Alberto Square, giro con lo squad, sono sempre con la gang. 21:30, sempre in diretta con Mala Radio da Milano. Questi erano gli RVA Strikers, la voce ufficiale dei Riders a livello musicale. Eh sì, E niente, abbiamo sentito appunto una voce che ci raccontava più in generale ovviamente dello sciopero, della vita dei rider, delle rider, e anche della questione delle multe, che vabbè è inutile dirlo perché probabilmente veramente tanti di noi in generale in questo periodo si sono trovate ad avere a che fare con questa questione delle multe. Tante persone per i motivi più semplici sono state multate durante i periodi di chiusure più serrate, però è stato anche un nuovo strumento repressivo non indifferente, perché rispetto alle compagne e compagni, ma anche alle persone solidali, a chi si voleva avvicinare a un presidio, a chi sentiva il bisogno di scendere in strada, di cercare di sentire i suoi cari fuori da un carcere o per qualunque altro motivo ritenesse importante incontrarsi con altre persone o lottare, è stato veramente uno strumento che hanno, diciamo, riscoperto mettendo insieme due discipline, la disciplina amministrativa e quella diciamo dell'amministrazione stradale, quindi insomma con questa forma un po' ibrida, e che però è andata a colpire molto. È andata a colpire molto perché in un periodo così difficile comunque doversi ritrovare a dover pagare molti soldi chiaramente può essere scoraggiante rispetto al fatto di partecipare a delle iniziative, rispetto al fatto di sentirsi liberi di scendere in strada, e per quello che sappiamo rispetto a delle situazioni di lotta c'è stato, si può definire, un vero e proprio abuso di questa misura, con davvero tanta arbitrarietà, e ha assunto un po', diciamo, molte volte la forma di una mini indagine o di un mini processo, senza che però fosse un processo, e di conseguenza senza le comunque garanzie, diciamo, che sono in teoria previste quando c'è un rinvio a giudizio. E quindi insomma è abbastanza inquietante, perché poi in teoria dovrebbero essere sempre contestate sul momento queste multe, ma poi non lo sono mai. Molte persone vengono identificate tramite foto o video, che però è difficilissimo poi reperire, proprio perché appunto non si tratta di un processo, e quindi insomma una vera e propria misura repressiva. Quindi niente, bisogna cercare anche su questo come sul resto di organizzarsi, di darsi una mano, si possono fare dei ricorsi, e quindi insomma valeva la pena di analizzare, anche se così in breve, questo nuovo tra virgolette strumento repressivo. Sì, diciamo che con la scusa dell'assembramento piuttosto che delle violazioni delle varie zone colorate, che ormai sono un'ossessione per noi, non lo so, abitanti del mondo, penso, perché non si tratta solo di Europa, Italia, Germania o Sud America, è proprio, cioè, ovunque il mondo è diventato colorato. Diciamo che con queste scuse qui hanno un po' affondato il colpo a livello repressivo e soprattutto preventivo. Allora, abbiamo sentito prima sempre gli RVA Strikers. Sì, poi visto che dopo parleremo di sorveglianza, scusa, aggiungevo solo una cosa, perché è abbastanza inquietante che la questione di aver preso tante multe è stata comunque usata per gli avvisi orali, per dei fogli di via, per una serie di misure di sicurezza preventive. E anche per una richiesta di sorveglianza speciale in Romagna. Sì, ne rispetto, magari dopo. Sì, perché comunque anche questo discorso che poi no, sembra che sei pericoloso in qualche modo per la salute, poi no, lo sei per la società, insomma è un accostamento che va avanti almeno dal 700, però insomma lo stanno usando bene. Scusa, allora, torniamo alla musica. Torniamo alla musica, proviamo a rimanere sulla stessa linea d'onda degli Strikers, degli RVA con Strikers, parliamo sempre di Rider, per ora ci sentiamo Riders Under Storm. Però la versione è quella un po' più giovanile, rapper americana, con Snoop Dogg. Bella. Hey yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. king bumping in the back. Watch how about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, test roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like a cappella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. I like a G, without his chrome. It's hard to imagine. The homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean, I do it upper class. So fast in your seatbelts. It's so hot, it'll even make heat melt. So get aboard and roll and ride, slip through the like storm. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Homie, for you run into the trees. I see things that I never would have saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tire smoking up the whole street. And now the police wanna flash their lights and chase the dog all night. But I won't pull over, nor give up. Cause I just don't give up. Yeah, I'm from the side, boy, where we was born and raised. Straight up to ride, boy. Continuously, we get to it expeditiously. Keep the light on, east side on. Snoop Dogg in the doors, and yeah, we about to ride. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Qua di nuovo, sono le 21:39 e abbiamo deciso di parlare di quello che sta succedendo nella città di Milano in questi ultimi giorni e probabilmente anche nelle ultime settimane. Non so se avete notato, nei quartieri periferici di Milano ci sono questi pali della luce dove ci sono queste locandine che di solito invitano a delle feste, dei concerti, ma questa volta, se si guardano più attentamente, invitano a dei presidi, a delle chiamate in spagnolo, delle chiamate appunto di protesta da parte degli abitanti peruviani in Italia, appunto per protestare contro quello che sta succedendo in Perù. Abbiamo qua adesso una compagna appunto peruviana che vive in Italia che ci può aiutare a capire quello che sta succedendo. Ci senti? Pronto? Sì, pronto. Ciao, buonasera. Buonasera, ci senti? Sì. Volevamo... Sì, come senti? Sì, sì, ti sento, forte e chiaro. No, volevamo se... capire se riuscivi ad aiutarci un po' a capire quello che sta succedendo. Pronto, mi senti? Mi senti? Ok, io sì, ti sento. Ok. Ok. No, volevamo capire se ci aiutavi a capire quello che sta succedendo a Milano, ma soprattutto in Perù, e di conseguenza allora anche nella città. Ecco, praticamente non lo so, sì, credo che voi sapete che noi siamo in elezioni presidenziali per le elezioni presidenziali, sì. No? Sì, sì. Adesso stanno in ballottaggio due candidati. Uno della destra e uno della sinistra. E qua stiamo facendo praticamente una manifestazione perché quella signora Keiko, che già viene da un padre, Alberto Fujimori, che è stato presidente negli anni 90. E quindi lei praticamente vuole che l'annulli nel voti a Pedro Castillo, che è un presidente, che è un candidato alla presidenza della sinistra. Però lei lo cataloga, lui le dice che è di tutto, le dice che è una persona terrorista, che farà il Perù diventare come Venezuela, fa paura a tutti i peruviani con la finalità di che tutti votino per lei. Okay. E adesso praticamente stanno metà, stanno 50%, per esempio Pedro Castillo sta in 52% qualcosa e lei sta in 49%, non siamo ancora nel 100% di questa valutaggio, ci manca ancora, e loro, la OMPE, che è un ente di valutaggio del voto, stanno vedendo, ma però lei, Keiko, vuole annullare il voto di Castillo, perché dice che l'hanno fatto truffa, che stanno facendo familiare di loro. Invece non è vero, perché lei è la che fa questa cosa qua, sta praticamente abituata a farlo come il suo papà, come il suo genitore che è stato presidente del Perù. E questo affetta tantissimo, e noi peruviani stiamo proprio stanchi di questa corruzione di loro, di tutta la banda Fujimori. Stiamo praticamente stanchi, noi. Cioè, praticamente basta, noi peruviani ci abbiamo svegliati, già non vogliamo questa situazione più in Perù, vogliamo un futuro meglio per i nostri bimbi, per i nostri familiari, per la nostra gente, proprio perché la gente là praticamente si hanno alzati, tutti stanno in strada facendo questa manifestazione per Pedro Castillo, perché lo sappiamo che lui è una persona nata proprio dentro del Perù profondo, e sappiamo che lui farà rispettare nostra ricchezza che abbiamo nel Perù, perché il Perù è ricco in minerali, in tutte le materie che abbiamo noi di là. Invece anche negli Stati Uniti sta succedendo con lei, non le conviene, praticamente tutti gli Stati Uniti lei ha vinto di là. Invece non è vero, perché a loro non le conviene che Pedro Castillo vinca questa elezione, perché lui ha detto che se lui vince queste elezioni, lui farà rispettare tutti come si chiama quando te lo mandano lì, tutti i prodotti che lo vendiamo all'estero. Farà restare... Tutto questo... Nel senso che... Farà rispettare... Sì. Vai. Farà rispettare, farà pagare la cosa giusta, non come Keiko fa, Stati Uniti con Keiko, perché lei cosa ha fatto il suo papà? Suo papà faceva che ha venduto tutto, noi abbiamo il gas, abbiamo il petrolio, abbiamo cose da mangiare, cose della terra, che lui lo manda, lo vende a Stati Uniti, lo vende, quasi lo regala, e loro lo processano e non rivendono a noi il triplo, il quadruplo. In queste qua è che lei che prendendo i soldi che fanno la mafia, per questo che a Stati Uniti non le conviene che vinca Pedro Castillo, per questo ha fatto vincere a Keiko di là Pedro Castillo niente, è arrivato 20%, invece lei praticamente tutto. E queste che stanno valutando anche la OMP, ver si è vero, stanno valutando tutti i voti, tutti cedula, stanno valutando cedula per cedula. E qua stiamo facendo lo stesso, stiamo facendo la manifestazione nel consolato peruviano, ieri, oggi, la settimana fa, abbiamo fatto nel Duomo, abbiamo fatto tutto questo, perché? Perché non è giusto, noi peruviani non sappiamo come di che personaggio viene lei, cosa fanno, cosa stanno abituati a fare la mafia, stanno abituati a comprare la gente. Ti prendono, se tu vedi la notizia di là è bruttissima, si vede tante cose brutte di là, la gente è stufata, ti giuro, è stufata anch'io, vorrei il migliore per il mio connazionale di là che abitano. Lei dice no, che lui è un terrorista, che lei farà le cose come farà diventare il paese come Venezuela, come Cuba. No, il mio paese già è un Venezuela, perché lei vede solo Lima, non è il Perù, non è solo Lima, il Perù deve andare nell'interiore, c'è tanta pobreza di là, ci sono tanta pobreza, tanta gente povera, che lei lei è stata congressista, è stata presidenta di tutto il congresso, di un gruppo di congresso, 73 congressista lei aveva, che cosa ha fatto? Non ha fatto niente, ogni elezione, sono tre volte che sta perdendo lei con questa, pensate voi un pochino, perché perde terza volta? Perché la gente non le crede più, quando c'è la candidatura, quando lei deve fare la presidenza, vuole entrare in presidenza, lei promette tutto, se farà questo, se farà l'altro, quando invece non lo fa, non fanno quello che dicono. Posso farti una perché domanda? Non è vinto, perché la gente lo sa che loro vengono facendo queste cose, tutti i video che faceva il papà, quanto soldi entregava alla prensa, tanti soldi dava alla prensa, noi praticamente no, basta, abbiamo detto, abbiamo aperto gli occhi, non vogliamo questo Perù, non vogliamo questa storia ancora con il Perù. È molto triste questa situazione, ragazzi. Posso farti una domanda? Sì. Sì, ciao. Volevo chiederti, ho guardato adesso il sito che citavi, l'OMPE, sulle elezioni. Ho visto che c'è una grossa differenza, cioè i centri urbani hanno votato più Keiko, mentre la Sierra, verso le Ande, hanno votato in massa Castillo. Pedro Castillo, certo, perché non perché di quelle, la Sierra, dove tu dici la Sierra, la gente ha visto prendere l'oro, ha visto prendere il minerale, ha visto prendere la mina, che lei c'ha una mina e dice che non è vero, se porta all'esteriore, agli Stati Uniti, di lì lo vende come deve venderlo, però non lo vende a un prezzo giusto, dice all'Stato che lo vende così, il papà ha fatto tutto questo, e poi tramite il papà tutti si hanno arricchito, hanno fatto i soldi, la gente lo ha visto, la gente non li crede più, ha votato tutto l'interiore, la Sierra, lei praticamente solo ha vinto la costa, che è Lima, e Stati Uniti, che ti dico quello che succede con gli Stati Uniti. E poi tutto l'estero ho visto anche, perché anche in Italia ho visto i risultati, siamo su Milano, ho visto che c'è un 5% di differenza a favore di Keiko. Esatto, perché la gente è stufa, guarda, è una cosa da piangere, perché la gente non guarda, beh, l'interiore è la Sierra, dove tu dici, lei non va mai aiutare la Sierra, non va, anche il papà solo quando fa la presidenziale, quando vuole fare presidente, è andato all'interiore a fare questo, a fare l'altro, beh, nel primo governo lui ha fatto tante cose, sì, certo, però dopo del primo governo, perché è stato 10 anni nel governo la prima volta. Nel secondo governo ha fatto disastri, ha cominciato a rubare tutto l'oro, tutte le cose che noi abbiamo di là. E poi è diventata una dittatura, no? È diventata una dittatura, no? Poi si è trasformata in dittatura. Prima era un presidente, poi è diventato dittatore. Fujimori. E infatti, non voleva uscire. Loro sono il dittatore. Non quello che le dice a Castillo che è un terrorista, che è un comunista, che è qua, che è là. No, lei è, perché lei no, papà non voleva uscire. Ha fatto anche, ha chiuso lui ha chiuso il congresso, l'ha chiuso lui, ha fatto una riforma, sì, però invece no, la gente, cioè la poca gente che sta con lei è perché lei ha messo paura, l'ha fatto mettere paura a tutti dicendo che qua, che lui è così, no, ma invece non è vero, lui si vede che è una persona del nostro, della sierra, come dice la persona che mi ha parlato, che mi ha fatto la domanda, lui è della sierra e lui vuole fare rispettare il nostro Perù, praticamente lui ha detto che vuole recuperare tutto che il papà ha venduto, che papà ha regalato, lui vuole recuperare. Non è che vuole diventare il Perù come Venezuela, no, lui vuole recuperare soltanto per quello. E la gente che ha soldi di là non le conviene che lui sia il presidente, perché anche loro non pagano impuesto. Il grande, come le imprese grandi di Perù, non pagano impuesto perché le danno alla persona, le danno poco soldi. Sì, tu non pagarmi niente, pagami un poco a me per lo basso, però dopo io ti annullo la deuda. Debito, invece sì. Lui, Pedro non vuole questo, Pedro dice che sarà tutto uguale, perché non è giusto che a una impresa piccola in Perù le fanno pagare tanto impuesto quando le vedono qualcosa che non va, per esempio, le fanno pagare tanto impuesto, le chiudono, pure le chiudono. Invece anda a vedere l'impresa grande, quella impresa gigante, con l'impresa che hanno, per dire, Telefonica, quello che ti parlano al telefono, quello, c'è un nome che si chiama Telefonica là. Allora le hanno perdonato tanti milioni e milioni di euro di soldi che devono. Perché? Perché sono amici, perché le danno per la candidatura, le danno il soldi. Quanto soldi le hanno dato? Tante opere a Licor, sono imprese transnazionali. Ascolta, quello che ci piacerebbe adesso, appunto, salutandoti e ringraziandoti per le notizie e gli aggiornamenti che ci arrivano, volevo chiederti se alla prossima manifestazione che ci sarà a Milano noi possiamo magari partecipare e faremo... Ebbene, lo ringrazierei tanto. Esatto, e poi magari possiamo fare delle interviste alle persone presenti. Sarebbe bellissimo, perché anche mio connazionale hanno voglia di sfogarsi, guarda, perché ti giuro non ce la fanno più. Tanta, sì. Immagino, okay. Quello che ci ha raccontato, sì. Immagino. Ok. Va bene, grazie mille, preziosissime informazioni. Buona serata a tutti, grazie a anche voi. Anche a te, anche a Salve, voi. Salve, buonasera. Ciao. Bene. Veniamo informate se a Milano, appunto, veniamo a sapere che o sotto l'ambasciata del Perù o in Duomo ci saranno altri presidi o manifestazioni. Sì, perché stavo guardando un attimo, siamo proprio alla fine del conteggio, siamo al 99-98 e ci siamo praticamente, che la Fujimori. Che se ne va. Ma sai, le porte della corruzione degli Stati Uniti sono infinite. E adesso... vi lasciamo con una canzone sorpresa. Poggio la bottiglia vuota sul tettuccio, mi tiro sul cappuccio, mi specchio nel nero di questo lambrusco. E fuori ha fatto buio, forse dovevo fermarmi a un certo punto. E sto allo stesso punto, ma sbagliare ormai ci ho preso gusto. Dovevo dare alle tue parole il peso giusto. Sotto un cielo nero di stormi, i secondi sembrano minuti ed i minuti sembrano dei giorni. Non sono io ad essere cambiato, sei tu che mi guardi con altri occhi. Ti ho cercato in fondo ai vodka tonic, tra i ricordi e in fondo ai brutti sogni. Non so nemmanco da quello che fuggo. Le ombre si allungano lente sul muro, scritte con lo spray sul vetro del notturno. Da uno spintone al portone so chiuso, l'ultima volta poi giuro che ho chiuso. E poi giuro un minuto, non sai quanto ti ho voluto, ti giuro. Ci siamo persi dentro le volute di fumo. Il cellulare squilla a vuoto, io lo lascio fare. In tasca una schedina ancora da giocare. Un mozzicone spento sopra il davanzale. E una mezza bottiglia, quindi poco male. Sto spaccini cercano il mio sguardo. Ti sto ancora aspettando. Proseguo il martini bianco. Promesse che mi rimangio. Ehi, ehi. Un'ombra che non mi somiglia mi cammina a fianco. Strisce pedonali sbiadiscono via dall'asfalto. L'aereo taglia in due le nubi. Il vento tra i rami ricurvi. Le piange lacrime da nubio. E vorrei sciogliere ogni dubbio. Agli angoli angeli caduti. Che ormai sembriamo sconosciuti. A cena a tavola con lui, sogno ad occhi aperti, vivo ad occhi chiusi. Il cellulare squilla a vuoto, io lo lascio fare. In tasca una schedina ancora da giocare. Un mozzicone spento sopra il davanzale. E una mezza bottiglia, quindi poco male. Questa era Lambrusco di Franco 126. Ora parliamo un po' di Milano, come sta cambiando. Se vi ricordate, un po' di tempo fa abbiamo parlato dello scalo di Porta Romana, che è un super cantiere, un super progetto che coinvolgerà tante cose di quell'area della città, ma come dicevamo quella volta, non soltanto i maxi cantieri influenzano tutto lo sviluppo del tessuto urbano e degli abitanti, e quindi ci interessava anche parlare di cose magari che non danno così nell'occhio come uno scalo ferroviario vuoto, ma comunque che fanno parte di un progetto di riqualificazione e di cambiamento della città intera, che hanno dei risvolti sulla città intera e non solo su quello che li circonda. Per questo volevamo parlare del giardino Primo Moroni, che è in via Conchetta, che è al centro di alcuni interessi che lo vogliono trasformare, e ne parliamo con Tommaso dell'Archivio Moroni. Pronto? Ciao! Ciao! Ciao, ciao, ciao! Buonasera! Vado io? Sì, sì, se ci vuoi raccontare un po' la storia del giardino, cosa vogliono fare. Vi racconto una storia molto più modesta di tutte le storie di cui avete parlato adesso, e probabilmente meno interessante, però che in qualche misura va tenuta d'occhio, è un po' un segno dei tempi. Questa storia inizia a ben guardare nell'inizio degli anni 90, quando un gruppo di abitanti del quartiere, stufo di avere un parcheggio che occupava tutto lo spazio là sotto, sto parlando delle vie che vanno tra Conchetta, Torricelli e via Troilo, è un angolino piccolino, molto modesto, questo gruppo di abitanti del quartiere decide di piantumarne una parte e quindi ne fa giardino, insieme al centro sociale Conchetta, che era vicino, che fornisce un po' d'aiuto e supporto e partecipa a delle discussioni che prendono vita sull'uso autogestionale del territorio, quindi ponendo la questione della legalità, eccetera, tutta una serie di questioni che non sono per nulla superate al giorno d'oggi, però diventa un momento di discussione territoriale importante, tanto che il comune ad un certo punto accetta questa cosa e costruisce una specie di collinetta in questo angolino, ci mette una panchina e quello è verde, e ancora oggi se qualcuno passa di là nelle giornate molto calde può prendersi un pochino di fresco là sotto. 10 anni dopo un altro piccolo angolino che era un pochino lasciato a se stesso viene occupato, come si può dire, da una serie di giardinieri dipendenti che iniziano a pulirlo, ci piantano delle cose, lo mettono a posto, lo rendono un luogo gradevole dove effettivamente ci andavano poi i passanti, si mettevano, c'erano dei tronchi d'albero per sedersi e mangiare il panino, queste cose qua. Inizia una collaborazione con le scuole più vicine che vengono coinvolte nelle attività di coltivazione, semina, eccetera, vengono portati là, insomma uno spazio verde, Milano verde ce n'è poco, per cui benché piccolo questo posto era utile, ecco, diciamo così, anche per i ragazzi dell'asilo e della scuola elementare che è lì vicino. Succede però che il comune decide che lo vuole assegnare, c'è un po' di discussione, il consiglio di zona in questo caso, e direi intorno al 2011, qua siamo a cavallo tra Moratti e Pisapia, diciamo c'è una perfetta continuità di comportamento dall'uno all'altro, questo se volete anche questo può essere un fatto di cui prender nota. Il comune lo assegna ad un locale vicino, è un bar che ci mette una base, non so, un pezzo di tavolato di legno, un po' dei pallet e dei tavolini all'aperto, e di fatto diventa un luogo di profitto, ecco, diciamo così, diventa un luogo dove commerciale, ecco. Con quando scade questa concessione, si riparte la discussione al consiglio di zona. E questa volta si fanno vivi i vicini, gli abitanti della casa vicina. Allora c'è una trattativa abbastanza lunga, a cui mi è capitato di partecipare anche personalmente, e questi vicini lamentavano un po' il rumore del bar, e poi però si dicevano insicuri del quell'angolino la sera, poteva essere fonte di pericolo, ladri, persone di malaffare, non so. Così, e allora se lo fanno assegnare, garantendo però che lo spazio resterà aperto, cioè loro dicono no, noi vorremmo che venisse recintato, ma noi lo terremo sempre aperto tranne la sera, verso le 10, le 11 lo chiudiamo in modo da non essere aggrediti nelle ore notturne. Questa cosa passa e da allora quel giardino è chiuso. È chiuso non sempre, sempre, sempre, nel senso che questo che hanno avuto la concessione si organizzano lì delle feste, anche loro, con le scuole, naturalmente, però diciamo senza il loro consenso e la possibilità non c'è modo di entrare in questo giardino. Arriviamo adesso alla parte di fronte, gli anni sono sempre gli stessi, saltiamo all'anno dopo, c'è una certa aspettativa su questo verde del quartiere. Lì c'era un'area un pochino più grossa, dove si racconta che un tempo c'era una birreria, poi si raccontava che c'era sotto una delle bombe sepolte, che non si poteva andare, insomma tutta una serie di leggende metropolitane, di fatto era chiusa da una ringhiera. Una notte questa ringhiera sparisce. Il posto si apre, la gente comincia ad andarci, ad utilizzarlo, e di fatto diventa un luogo aperto, accessibile, come ci piace a tutti, diciamo. Vengono piantate un gelso nero, viene piantato, che adesso chi capita di passare lo può vedere, è diventato grandissimo, imponente, fa dei gelsi anche a Milano, che anche a Milano risultano essere abbastanza buoni, diciamo, non sono proprio come quelli del Gran Caldo. Poi questo giardino viene chiuso di nuovo perché devono essere fatti dei lavori nella casa vicino, quindi per mettere in sicurezza il cantiere viene chiuso, ma alla fine verrà riaperto definitivamente, e a quel punto decidiamo insieme ai compagni del centro e un po' di amici della zona così di intitolarlo a Primo Moroni, Giardino Primo Moroni, essendo quello poi un luogo dove lui era passava tante volte a chiacchierare, a parlare, insomma è molto vicino al centro sociale, è la parte che dà su via Conchetta di questo piccolo angoletto di terra. E da lì procediamo abbastanza bene, nel senso che questo pezzo di terra è frequentato da proprietari di cani, vabbè, va detto che ci sono sempre, e anche magari un po' disattenti, però ci facciamo i mercatini dell'autoproduzione, anche lì con le scuole si va e si fanno un po' di iniziative, non, non si fa proprio coltivazione perché non c'è l'acqua, non c'è una fontanella vicina e quindi è un po' più lontano dall'acqua di quello altro e quindi si riesce meno a, a fare proprio del lavoro con la terra, però lo si usa bene. Arriviamo alla pandemia. Naturalmente sono molto, molto più difficile muoversi, c'è il coprifuoco e tutte queste cose qua. Ad un certo punto, all'inizio diciamo di questa primavera, questo luogo viene adottato un po' dai ragazzi che, non potendo andare nei bar, i locali erano chiusi, ma riuscendo a stare fuori un po' di più la sera, vanno là a chiacchierare. C'è qualcuno che un bar che organizza un chioschetto che vende delle birre da asporto e diventa un luogo frequentato, diciamo una bella rappresentazione di un uso pubblico della città in una situazione come questa, diciamo è un bel vedere. Questo però infastidisce un pochino gli abitanti del quartiere che vedono di malocchio, non credo tanto il rumore, e un po' forse viene lasciato dello sporco, ma diciamo c'è un po' di diffidenza verso questo uso promiscuo dello spazio, benché non sia proprio in casa loro, ecco, diciamo, però è vicino, è così. E questo brusio prende corpo in una, come si potrebbe dire, in un gruppo di Facebook, diciamo, una di quelle collettivi della modernità che non sono fisici, però sono capaci di molte parole e lasciano spazio delle volte anche a degli sproloqui del tutto inappropriati. Questo gruppo, una social street del quartiere, manifesta somma preoccupazione per questo piccolo pezzetto di terra e naturalmente il degrado, eccetera, così, e organizza, manifesta questa cosa. Contemporaneamente, naturalmente le posizioni non sono tutte uguali, c'è chi propende per una chiusura, la soluzione più facile per lasciare un luogo pulito è quella di non poterlo usare, ecco, diciamo di non usarlo, è stato fatto tante volte anche proprio lì vicino, e chi invece non è tanto d'accordo. Un po' questa seconda parte, ma non solo, organizza una giornata in cui il giardino viene pulito e in un luogo vicino delle presentazioni di libri, un racconto dell'apicoltore che racconta la storia delle api, insomma una cosa abbastanza carina per il quartiere, che purtroppo oltre alla pulizia del giardino però non lo coinvolge, cioè tutto il resto dell'attività avviene fuori, vabbè, questo va detto. Naturalmente siamo in campagna elettorale e quindi questa è una buona occasione perché l'assessore, il presidente del consiglio di zona leghista, passi la mattina mentre gli altri puliscono, stazionando al mezzo a questo giardino e confabulando con le persone che vogliono parlare con lui, ecco, diciamo in qualche modo. Questo, diciamo, è indice del fatto che questa zona diventa un pochino un'area di interesse, e di nuovo nel quartiere questa ipotesi di chiusura torna fuori un po', insomma, che c'è questa idea. Il comune ha messo a bando gli spazi verdi, quindi è possibile fare lo stesso percorso che era stato fatto con quell'angolino che vi ho detto prima, che è stato poi assegnato agli abitanti degli appartamenti. Questa cosa è possibile da fare, cioè, sulla carta è possibile. Purtroppo non siamo riusciti in nessuna delle occasioni a avere un confronto con il quartiere su questa cosa, perché ci è un po' scappato di mano, la notizia è arrivata tardi, eccetera. Noi organizziamo lì col centro sociale tutti questo mercatino delle autoproduzioni che viene fatto talvolta dentro il centro, ma che l'ultima volta, come tante altre volte prima, è stato fatto al giardino proprio per segnare il fatto che fosse un luogo che andava utilizzato. e per la prima volta dal 2004, in cui si fa questo mercatino, è arrivata la nonaria, che ha detto di essere stata chiamata da qualcuno del quartiere perché venisse a fare un controllo sulle bancarelle. Ecco, siamo qua, la storia non è finita, non si sa dove andrà, e noi, la nostra intenzione è quella di organizzare nell'inizio di luglio magari un'iniziativa, un aperitivo aperto al quartiere, come si può dire, promuoverlo internamente, per proporre un tavolo di discussione su che cosa fare di questo spazio, invitando tutti a farsene come dire, utilizzatori. È un posto che si presta per fare il cinema all'aperto, di nuovo le feste con i bambini, ma anche i mercatini, le presentazioni, è molto comodo, anche c'è poco traffico vicino, e quindi diciamo sarebbe molto ben utilizzabile, e probabilmente utilizzato bene anche i proprietari di cani si asterrebbero da farne proprio una latrina, e sarebbe anche più pulito, diciamo, a vantaggio di chi guarda in particolare il degrado. Ecco, la storia non è finita, appunto, come vi ho detto, non so come finirà, è un segno però di una città molto in movimento, al di là della, noi pensiamo, insomma, al di là della questione delle imminenti elezioni, per cui schieramenti partitici da una parte muovono anche delle risorse di quartiere per tirare delle cordate a loro vantaggiose, però è una città in cui il consumo dello spazio e del suolo è feroce, ecco, e questa uscita temporanea, forse, chissà, dalla questa situazione pandemica lo sta mostrando anche in questi piccoli angolini della città. Ecco, questa è una piccola storia che vi volevo raccontare. Ti ringraziamo certamente per la storia, staremo attenti a quello che succede, faremo in modo di frequentarlo il più possibile. Comunque si chiudo dicendo che è un giardino che conosco, molto frequentato, e spesso anche la retorica del decoro e del degrado magari non fa delle cose esteticamente violente come chiudere, ma cambia la frequentazione di un posto, inducendo anche il cambio di frequentazione intorno, quindi anche a quello secondo me sarà da stare attenti. Può essere. Sì, certo. E poi magari ci riaggiorniamo man mano che va bene. Vi mando una seconda puntata se c'è qualche novità. Grazie. Grazie mille a voi per tutto quello che fate. Grazie, una buona serata. Ciao. Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't f*** with the big 4-0. Bro, I got to maintain. Cause a like me is going insane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Insane in the membrane. Too much undercover, now it's time for the blubber. my crops. These pigs wanna blow my house down. Head on the gram to the next town. They get mad when they come to raise my pad. And I'm out in the night too scared. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eyes strain. Like me, it's going insane. Allora, bentornati e bentornate su Mala Radio, Milano, sempre in diretta, sono le 22.16, ora proviamo a riparlare di un argomento che abbiamo già trattato nelle puntate precedenti e anche nella puntata di settimana scorsa, parliamo di sorveglianze speciali. Ripartiamo appunto dall'intervista che c'è stata settimana scorsa riguardo le richieste delle due sorveglianze speciali che ci sono state a Firenze. Ricordiamo che a Firenze sono state richieste due sorveglianze speciali per i fatti specifici del 30 ottobre. Cosa è successo il 30 ottobre 2020, se vogliamo ricordarlo? Il 30 ottobre 2020 la gente è scesa, diciamo, in strada e si è fatta sentire, diciamo, in maniera forte contro le restrizioni che stavano venendo imposte su tutto il paese, insomma. Sì, quindi appunto ripartendo da lì, parlando di sorveglianza speciale, volevamo rilanciare tutta, tra virgolette, la campagna che hanno provato a proporre i compagni e le compagne di Firenze: basta leggi fasciste, non la sorveglianza speciale. C'è stato un presidio mercoledì 9 giugno presso il Palazzo di Giustizia al Tribunale a Firenze. Se volete avere maggiori informazioni potete andare sul sito www.nosorveglianza.it. Ma di sorveglianze speciali ne stanno arrivando, di richieste perlomeno, ne sta arrivando a bizzeffe. A Genova è stata appena accolta la richiesta per una compagna di 2 anni di sorveglianza speciale, la richiesta del PM nello specifico era di 5 anni. A Cagliari ne sono state chieste altre 4, a Torino abbiamo sentito anche la persona che, alla quale è stata richiesta la sorveglianza, che tra l'altro è l'autore del libro Io non sono come voi, edito per Iris Edizioni, insomma è stata richiesta la sorveglianza speciale. A Bologna, e ora a breve proviamo a leggere, insomma, delle considerazioni in merito all'operazione ritrovo, appunto alle richieste di sorveglianza speciale, sono state richieste altre 7 sorveglianze speciali per i compagni e le compagne. Proviamo a leggere il comunicato. A un anno di distanza dall'operazione ritrovo è arrivata la richiesta di 5 anni di sorveglianza speciale con obbligo di dimora per 7 compagni e compagne indagati in quell'inchiesta. L'udienza è stata fissata per il 12 luglio. La mossa ci sembra del tutto in linea con quanto avvenuto tanto nel passato recente, vedi Cagliari e Genova, che in quello più remoto. A fronte del fallimento o del drastico ridimensionamento della portata di un'inchiesta, si tenta di colpire le stesse persone con altri mezzi. L'intento è chiaramente quello di non mollare la presa, indebolire quei contesti in cui pensare e organizzare la critica e l'opposizione a questo stato di cose. È una prassi che rimane costante, anche col solo far sentire compagni e compagne costantemente sorvegliati, col fiato sul collo, cercando di metterli sotto pressione. La sorveglianza speciale, e in modo differente le misure cautelari minori come gli obblighi e i divieti di dimora, sono misure tanto subdole quanto infami. Chi ne è colpito è isolato in modo apparentemente molto meno impattante rispetto a provvedimenti più pesanti come gli arresti. Tuttavia, seppur con mezzi diversi, l'obiettivo dello Stato rimane lo stesso: restringere il campo di chi si muove, togliere di mezzo chi si espone e fungere da monito per chiunque avesse intenzione di farlo. E ci può riuscire tanto con il carcere che con altre, seppur più lievi misure. Quando compagni e compagne spariscono dai contesti in cui lottavano fino al giorno prima, proprio a causa di queste misure, ce ne accorgiamo. E se non ci sorprende che di fronte ad esse la risposta solidale non si esprima con lo stesso impeto che di fronte ad un arresto, ci preme comunque sottolineare che l'obiettivo a cui mirano è spesso il medesimo: arrestare dei percorsi di lotta, e questo non possiamo permetterglielo. Ci sembra quindi essenziale innanzitutto collettivizzare il contenuto di tale richieste e auspicare che il dibattito e la resistenza a queste misure si allarghino, data anche la mole di sorveglianze richieste sul territorio nazionale negli ultimi mesi: 4 a Cagliari, 2 a Genova, di cui una attualmente attiva, una a Torino, 7 a Bologna, precedute da altre 2 nella provincia, di cui una rigettata e una data. E vabbè, poi per continuare a leggere il resto del comunicato, se volete potete andare sul sito roundrobin.info, c'è proprio l'articolo sulle richieste di sorveglianza speciale. Aggiungiamo appunto, come già detto, che riguardo tutte queste richieste di sorveglianza speciale ci sono le altre due che il PM, che i PM fiorentini hanno provato ad accollare ai compagni e alle compagne che si trovavano nella giornata di lotta del 30 ottobre. Parlando sempre di compagni e compagne, represse, ci spostiamo insomma dalla sorveglianza speciale invece alla situazione dei prigionieri e delle prigioniere incarcerate, e per una volta volevamo provare a ricordare gli indirizzi dei compagni e delle compagne che sono attualmente in galera. Sì, allora vi ricordiamo gli indirizzi appunto dei compagni e delle compagne che si trovano in galera. Arrestato con l'operazione Bialystok, Claudio Zaccone si trova a Siracusa, casa circondariale di Siracusa, strada Monasteri 20, 96014, Cavadonna, Siracusa. Poi con l'operazione Prometeo è in carcere Giuseppe Bruna, in via del Gomito 2, 40127, Bologna. Natascia Savio, invece, casa circondariale di Vigevano, via Gravellona 240, 27029, Vigevano. A questo proposito ricordiamo, e poi lo ricorderemo anche nelle iniziative, che domenica 13 giugno alle ore 11 ci sarà un presidio in solidarietà a Natascia, fuori appunto le mura del carcere di Vigevano. Continuiamo con l'operazione Scriptamanent. Alfredo Cospito si trova in via Arginone 327, 44122 Ferrara. Poi Anna Beniamino, casa circondariale di Messina, Gazzi, via Consolare Valeria 2, 98124 Messina. E poi ci sono tutti gli altri compagni e compagne che non sono state arrestate all'interno di operazioni specifiche per terrorismo, per 270 bis o per 416. E volevamo ricordare anche i loro indirizzi. Per scrivere a Juan Antonio Sorroche Fernandez potete farlo mettendo l'indirizzo strada delle Campore numero 32 051 00 Terni. Poi c'è Maddalena Calore che si trova presso la casa circondariale di Uta, strada seconda ovest 09010 Uta Cagliari. Davide De Logu, il compagno sardo, è recluso nella casa circondariale di Vibo Valentia, l'indirizzo è CC Nuovo Complesso, contrada Cocari. Fabiola De Costanzo invece si trova a Torino, presso il carcere delle Vallette, via Maria Adelaida Ietta 35, il CAP è 10151 Torino. E poi c'è Mauro Rossetti Busa, che si trova recluso ormai già da un po' di tempo nella casa circondariale di Agrigento, piazza di Lorenzo 1, 9200 appunto Agrigento. E notizia di pochi giorni fa, purtroppo dobbiamo allungare insomma l'aggiornamento degli indirizzi dei prigionieri. Comunque un compagno che è stato partecipe delle giornate di lotta del G8 nel 2001, e quindi di 20 anni fa, riguardo i fatti del G8 di Genova, insomma ci ricordiamo tutti dell'uccisione da parte delle guardie di Carlo Giuliani in quelle giornate di lotta che furono molto intense. Ecco, questo compagno è tornato in carcere. Lui era al momento in una comunità, però a quanto pare il magistrato di sorveglianza ha deciso che doveva ritornare in carcere per finire di scontare la pena. E quindi, se volete scrivere a Luca, potete farlo mettendo l'indirizzo Luca Finotti, che è recluso presso la casa circondariale di Cremona, via Palosca 2, 2600 Cremona. Bene, dopo questo aggiornamento di indirizzi, insomma, dei prigionieri e delle prigioniere, ci sentiamo un po' di musica. Prima ci siamo sentiti Cypress Hill, Insane in the Brain, ora continuiamo con un pezzo mega anni 80, The Final Countdown, Europe. E prima delle iniziative ci girano, leggiamo questo comunicato da Corvetto. Questa mattina MM, accompagnata dal solito dispiegamento di polizia in antisommossa, camionette e numerosi agenti in borghese, si è presentata in Corvetto per sgomberare una casa in piazza Gabriel Rosa 9. Settimana scorsa stessa messa in scena per un appartamento in via Panigarola 5 e la settimana ancora prima in Monpiani 4. Ci vediamo allora venerdì 11 giugno in piazza Ferrara alle ore 18 per portare solidarietà a chi è stato sgomberato. Fuori Aler, MM e polizia dalle nostre vie. Basta sgomberi. E allora andiamo con tutte le varie iniziative che sono previste a Milano e dintorni per i prossimi giorni. Venerdì 11 giugno, sciopero di 8 ore del sindacato USB contro lo sblocco dei licenziamenti. Alle 14 ci sarà un presidio sotto la prefettura di Milano. Sabato 12 giugno dalle ore 18 presso il bookstore solidale in via Nicolò Antonio Porpora 47 Milano c'è un'iniziativa di controinformazione dove avremo la possibilità di metterci in contatto con alcuni compagni colombiani direttamente coinvolti nelle proteste. Ci spostiamo leggermente da Milano e andiamo a Monza, presso la FOA Boccaccio in via Rosmini 11, dove a partire dalle 17.30 ci sarà MZ Underground Party volume 2, ingresso libero, dalle 17.30 live painting e musica diffusa, dalle 20.30 live DJ set con Memento, Brividi, Deep Kunda, Grey Mood, Double B, Chevy, per tutta la serata cibo e drinks. Tutto l'evento si svolgerà in ampi spazi aperti. E come abbiamo già detto prima, domenica 13 alle ore 11 un presidio al carcere di Vigevano in solidarietà a tutte le detenute e i detenuti e per solidarietà Natascia. Sempre domenica 13 giugno dalle ore 15 al Cox 18 giornata di box popolare, allenamento per tutti e per tutte, presentazione del libro Cuore, classe e fegato, a seguire birrette socialità. Sempre domenica 13 giugno dalle 21 uno spettacolo teatrale nel cortile di Pichi 3 nel quartiere ticinese che si intitola Ruste Cavei, è uno spettacolo, una storia popolare. E sempre domenica 13 giugno alle 18 a Nerviano, area verde, le Betulle, un'assemblea di Eccoci Queer. Portiamo in piazza il nostro orgoglio queer e transfemminista. E per concludere la serie di iniziative, ricordiamo che mercoledì 16 giugno ci sarà Scarpetta's Got Talent, il torneo mondiale di scarpette e pulizia nel piatto, si terrà in via Gola nel quartiere ticinese, tra i 16 e i 20 partecipanti. Ci saranno varie fasi, e si accettano soldi falsi e soprattutto scommesse false, sarà tutto falsato, ci sarà una sorta di supervisione da parte dei migliori che sapranno apprezzare i tornei di scarpetta e probabilmente se non saranno in grado di giudicare interverrà il pubblico. Ricordiamo che comunque questa iniziativa è benefit inguaiati con la legge e niente, quindi se venite proveremo ad aiutare una persona che non può essere al momento con noi perché è reclusa. E niente, volevamo provare a finire questa puntata di Mala Radio con una canzone che si chiama One Last Dance di The One MC feat. Anouk Hayata è sicuro? Sì, no, non so la pronuncia, però di sicuro volevamo dirvi di tenervi pronti, tenerci pronti e pronte, perché il 18 giugno ci sarà sciopero nazionale nel settore trasporto e merci logistica, è la notizia che abbiamo appreso da poco, poi nella prossima puntata ne parleremo meglio. Va bene, partiamo con la canzone. Partiamo con la canzone, salutiamo tutti e tutte, ci rivediamo giovedì prossimo sempre alle 20.30 con Mala Radio in diretta da Milano. E per chi si è perso la puntata? Potete andare sul nostro blog malaradio.noblogs.org dove ci sono tutti i podcast e le varie puntate diciamo arretrate, vecchie, precedenti. Potete scriverci alla mail malaradio@autistici.org e ricordiamo sempre il numero di telefono che proviamo a pronunciare piano così lo capite, che è 351 91 82 889. Va bene, ciao a tutte e tutti. has never been told. You don't really wanna see the truth unfold. Happiness may be across the road. So tell me why you turn so cold. I remember those days when we used to be high on love. Used to be high on love. Go a dance till the morning come. Keep dance till the morning sun. Out of me mind a temptation rising. Why try resisting? Deep in my head I hear voices calling. Wanna see you again. Anytime you're in a motion, you bring commotion. Vibes in a motion. Anytime you're in a motion, you bring commotion. Just give me one last day. One last dance in the middle of the night. For sure, don't you leave me now with this feeling. Just wanna make love till morning. No talking, wine pan the rhythm and blues just fine. Time you're amazing, darling. Riding, let me slide in. I'm gliding, I'm in love with you, baby.